Famiglia. Un giorno, anni fa, un uomo che non aveva mai nessuno che girava per casa conobbe una famiglia di nome Tommaseo, piena di genitori, figli, zii e nipoti che stavano attenti uno all'altro in una villa in campagna. Anche l'uomo aveva una casa da quelle parti e d'estate montava a cavallo in compagnia di un giovane della famiglia di nome Marino. La moglie di Marino si chiamava Eta, così l'uomo pensava Eta Beta e ricordava il greco, e di un ragazzino, Ludovico Tommaseo, che diventò il suo alfiere. Perché Ludovico diventò suo alfiere? Perché un giorno l'uomo gli chiese l'ora, erano a cavallo dentro un bosco di acace. Ludovico guardò il suo orologio, poi disse: «È fermo». Lasciò le redini, allargò le braccia e batté gli occhi come dire: «Ahimè». Attraversavano un largo fiume ed entravano nei boschi di pioppi tra il verde quasi buio. Sbucavano in piccole praterie al sole piene di margherite gialle. Insieme, senza parlare, partivano al galoppo e guardavano branchi di fagiani grandi e piccoli che si alzavano in volo col loro grido strozzato. Poi sguazzavano nell'acqua limpida del fiume, nei punti in cui era torrente prima di diventare fiume. Scendevano da cavallo, si spogliavano e si immergevano nell'acqua gelida. Nei giorni molto caldi anche i cavalli si buttavano in acqua, rotolavano tra i ciottoli e si grattavano la schiena. Poi tre cavalieri risalivano, costeggiavano piccoli corsi d'acqua, sorgiva, lambiti da salici, guardavano tra le alghe le anguille e i gamberi e quasi sempre senza parlare. Il solo a parlare molto in fretta e incespicando era l'alfiere Ludovico, ma era un alfiere troppo giovane e non conosceva le regole. Verso il tramonto tornavano a casa. Dopo quelle gite a cavallo, l'uomo si sentiva stanco nel modo giusto, le cosce e le braccia stanche, il sauro aveva sangue e il cuore stanco perché era stato in compagnia. Così cenava bene e dormiva bene. Al mattino si svegliava all'alba, anche prima dell'alba, e il cuore, ritornato solo durante la notte, gli diceva: «Non hai nessuno che cammina per casa, gli anni passano, diventerai un vecchio e di te non resterà nulla». E il cuore si voltava dall'altra parte, col muso. Dopo un po' dormiva, ma l'uomo rimaneva sveglio e soffriva perché sapeva che quei pensieri all'alba erano intatti, limpidi e senza le illusioni che dà il giorno con tutte le sue cose. Allora pensava alla donna che amava, che era anche una figlia, come lui era un po' figlio di lei, e si consolava fino ai primi raggi del sole. Se si svegliava prima, non era il cuore dormiglione a parlargli, ma due usignoli che duettavano, uno di qua, uno di là del torrente. I trilli degli usignoli, uno vicinissimo alla finestra, l'altro lontano nell'umidità ancora notturna dei boschi, erano anche quelli un rimprovero, anzi peggio. Erano la più completa ignoranza e la disattenzione dei più forti e dei più felici. Così l'uomo, che invece essendo solo sapeva sempre tutto, si sentiva peggio di quando gli parlava il suo proprio cuore. Con l'alba gli usignoli cessavano di trillare le loro triple e quadruple note col ricciolo, scomparivano nei boschi e l'uomo rimaneva un'altra volta con la sua intelligenza, il suo coraggio e la sua inutilità. Una sera l'uomo fu invitato da uno della grande famiglia, che si chiamava Giorgio ed era sempre allegro perché aveva quattro figli e una moglie, Grazia. Nella casa c'erano molti fiori spediti da amici e parenti per la nascita dell'ultimo figlio, che quella sera stava in incubatrice. Il pensiero del figlio in incubatrice, era nato di 7 mesi, turbava molto l'ospite, ma non turbava affatto i genitori, che sorridevano sempre, né le sorelle né il fratellino, tutti con gli occhi a mandorla come Grazia, che lo guardavano fissi e stupiti, stando molto vicini a lui come a uno straniero. Uscirono a cena in un ristorante sul mare, quasi vuoto, da cui si vedeva il mare molto calmo, la luna riflessa e alcune lampade lontane di pescatori di seppie. Guardando quelle lampade, l'uomo pensò: «Chissà quanti figli hanno quei pescatori». Durante il pranzo, l'uomo, che stava seduto alla destra di Grazia, parlò molto con lei dell'allattamento del nuovo nato. Grazia spiegò: «In certe ore del giorno spremo il mio latte, lo metto in frigider, poi lo porto in clinica per il pasto al bambino». L'uomo chiese a Grazia molte cose sui seni. Grazia rispose: si gonfiano nell'ultimo mese e poi, una volta nato il bambino, si sente la necessità di allattare, altrimenti fa male. «Che cosa sente?» domandò l'uomo. «Si sente tirare tutto dentro». «E che sensazione prova dopo aver allattato?» Grazia rise con leggero imbarazzo. «Ci si sente meglio, più libere, più leggere». «E le piace allattare?» «Molto», disse Grazia. L'uomo giudicò indiscreto quell'eccesso di domande. Chiese mille volte scusa, ma non seppe trattenersi e domandò: «E lei, Grazia, ha mai assaggiato il suo latte?» «No, no», disse Grazia ridendo, e anche Giorgio, che non aveva mai assaggiato il latte di sua moglie, rise. «A me piacerebbe molto assaggiare il latte umano», disse l'uomo. E il candore di questa frase stabilì tra le persone a tavola, ma soprattutto tra Giorgio, Grazia e lui, una intesa, tanto che Giorgio disse subito: «Vuole assaggiarlo?» «Mi piacerebbe», disse l'uomo, che osava e non osava, e Giorgio disse: «Ora, quando saremo a casa, lo assaggerà». L'uomo guardò bene i due sposi amici che ridevano. Si rese conto di quanto fosse bella quella risposta e pensò: «Sono tutte e due calmi, allegri e con la forza di coloro che vivono in armonia con tutte le cose senza saperlo, come i due usignoli che mi svegliano al mattino». Il pranzo finì. Tutti si trasferirono a casa di Grazia e Giorgio. L'uomo era ansioso. Grazia andò in camera a spremere il suo latte per il bambino e Giorgio arrivò con un cucchiaino d'argento che porse all'uomo. L'uomo lo sorbì con molta attenzione e con il cuore che batteva. Sentì prima il tepore e la densità del latte e poi, stando attentissimo, sentì il sapore che era di latte, di miele, di margherite piccole o erba e di persona umana. Poi il latte si sciolse in bocca e tutto scomparve, ma gli bastò per capire fino a che punto l'uomo era privilegiato fra tutti gli animali e quale è la sua fortuna di nascere, di allattare e di vivere. Passarono gli anni, durante i quali l'uomo rimase solo e senza che nessuno girasse per casa. Sempre più sentiva questo silenzio nei parquet. I parquet non sono fatti per essere silenziosi. Nelle stanze la notte, le stanze sono fatte per contenere respiri e sospiri notturni e anche rumori di roba che si rompe durante il giorno. A tavola non udiva quasi più il suono delle sue proprie posate e nessuno doveva essere educato a non battere il cucchiaio nel piatto, a non versare vino sulla tovaglia bianca, a non fare briciole, a non mangiare maleducato. L'uomo non si abituò mai a questo silenzio. All'alba pensava a quella sera di aprile o maggio, non era certo, e al latte di Grazia. Ricordava latte, miele, fiori o erba e linfa umana. Aveva smesso da parecchi anni di farsi domande. Ricordava soltanto le cose della vita connesse a quel latte, ai due genitori allora giovani che non conoscevano la fine delle cose. Montò a cavallo altri anni. L'alfiere Ludovico e lo zio Marino qualche volta l'accompagnavano. Galoppavano, sguazzavano nel torrente e spaventavano i fagiani. Ridevano. Era estate. Poi la neve cadeva sui monti. L'uomo andava a sciare in compagnia di un amico montanaro di nome Micia, mezzo camoscio e mezzo cespuglio. A quei silenzi scianti e freddi, tra lampi del sole, dimenticava altri silenzi. Godette per un po' le gioie della vita. Incontrò, vide e amò molti occhi, pelli, le calme e le intelligenze pratiche di altre famiglie. Poi cessò di godere le gioie della vita e di lui non si ebbero più notizie, se non per sentito dire. Felicità. Un giorno di grande caldo del 1944, un gruppo di ragazzi sguazzava in un canale di campagna vicino a Padova. La campagna era piatta e gialla di paglia per il frumento appena tagliato. Non c'erano alberi, ma il canto delle cicale era fortissimo. L'acqua del canale era poco profonda e scorreva tra le alghe e un fondo giallo di fanghiglia con qualche rana. C'era un ponte lì vicino e i ragazzi videro passare a mezzogiorno due giovani vestiti di bianco, con la giacca e la cravatta, la pistola in pugno e circondati da altri in divisa con dei mitra. Parevano cercare qualcosa tra i covoni di paglia. Due o tre volte spararono e presero a calci delle galline che volavano e cantando sollevarono molta polvere. Quel giorno si era unito alla compagnia dei ragazzi un soldato tedesco molto giovane, con un busto di gesso che gli sosteneva il collo, di nome Fritz, con una fisarmonica. Aveva una pistola P-38 dal fodero di cuoio lungo e nero che montò e smontò davanti ai ragazzi molto attratti. Uno della compagnia, di nome Roberto, aveva portato con sé una cuginetta bionda e abbronzata che veniva da Milano e si chiamava Coralla. Aveva le orecchie bucate e due minuscoli orecchini in forma di anello con una perlina. Quando usciva dall'acqua mandavano piccolissimi lampi. Coralla era sfollata da Milano perché c'erano troppi bombardamenti e ne parlò con Giannetto, che era figlio di un federale fascista ma era molto simpatico, e disse a Coralla di conoscere i nomi di certe strade di Milano come via Donizetti e via Mozart. Giannetto non si poteva veramente chiamare fascista solo perché aveva il padre federale e poi si comportava in modo molto dubitativo perché a lui interessava soltanto il calcio e una sua zia giovane che andava a trovare certi pomeriggi. Uno dei ragazzi si chiamava Mario Foscarini e aveva 16 anni, era il più vecchio. Quasi non guardò Coralla al momento della presentazione, anzi si tuffò nel canale emergendo parecchio tempo dopo, forse due o tre minuti. Mario era anche il più bello dei ragazzi perché gli altri erano quasi bambini. Aveva capelli lunghi e neri, ondulati, che sapevano odore di pane fresco quando usciva dall'acqua. Un altro dei ragazzi, Massimiliano, detto Max, guardava Mario, Fritz e Coralla con molta invidia. Ma era un'invidia particolare perché era più ammirazione che invidia ed egli si sentiva debole. Egli sentiva nel loro odore il profumo e la bellezza dei vincitori, cioè qualche cosa di apparentemente eroico e di puro nei loro corpi, molto simile a quei giovani fascisti vestiti di bianco con la pistola in pugno che passavano dalla pistola al pettine per pettinarsi e camminavano nella polvere della campagna tra i coccodè delle galline. «Perché l'eleganza deve essere così stupida?» si chiedeva Max. E immaginava che quei giovani vestiti di bianco, con un distintivo all'occhiello della giacca, prima o poi sarebbero stati fucilati. Coralla conosceva il tedesco e, stando in acqua dopo aver nuotato a farfalla, parlava con Fritz, che stava seduto impettito nel suo busto, con calzoncini di grossa tela khaki, stivaletti chiodati e la fisarmonica a tracolla. C'erano altri tre ragazzi, ma di colore stinto. Uno era nato con sei dita di un piede, ma non aveva altro di interessante. Fu la presenza di Fritz, l'arrivo di Coralla da Milano con la sua abbronzatura coperta di una piccolissima peluria chiara, l'odore dei capelli di Mario Foscarini che crearono quel giorno tra i ragazzi un'aria fluttuante di attesa come non era mai accaduto gli altri giorni e come accade molto di rado alla vigilia di qualche grande avvenimento della vita. Quest'aria toccò il suo punto massimo in due momenti. Il primo, quando tutti sentirono l'odore di pane fresco che emanava dai capelli di Mario Foscarini. E il secondo, quando Fritz disse a Coralla: «Du scheint ein deutsches Mädchen zu sein». «Sembri una ragazza tedesca». E lei rispose: «Ich bin Italienerin». «Sono italiana». Tre cose c'erano, oltre a tutte le altre storiche, come la campagna, il caldo, la guerra e la fine di qualcosa, che portarono molto in alto quelle due frasi: la purezza della lingua tedesca, il timbro delle due voci, femminile quella di Fritz e maschile quella di Coralla, e il tono orgoglioso di quel suono italiana che fece un po' abbassare gli occhi a Fritz. Mangiarono pane e salame, uova, pesche e acqua di Vichy. Fritz si era portato del pane nero che spalmò distrutto e mangiò solo quello senza accettare nulla dai ragazzi, ma ringraziando sempre. Dopo mangiato, Fritz suonò la fisarmonica. Suonò e cantò Lili Marlene insieme a Coralla. Poi Fiorellin del Prato e Con te era bello restar in duplice versione italiana e tedesca. E lì Mario Foscarini insegnò a ballare a Coralla. Poi ci fu un momento di noia per tutti, in cui si udirono soltanto le cicale, qualche gallina lontana e il parlottare di Giannetto e di Max, amici intimi nonostante la politica. Max sapeva che Giannetto gli voleva molto bene, ma la differenza era che tra i due Max emanava amicizia e Giannetto la riceveva con tutto il bene possibile. Giannetto, mentre Max parlava, lo guardava allo stesso modo di Coralla, che guardava Fritz senza mai guardarlo, cioè guardandolo in trasparenza e pensandolo allo stesso tempo per non far vedere la direzione dello sguardo. Coralla a un certo punto chiese a Fritz di vedere la P38 e la prese anche in mano con un batticuore molto evidente. I loro ginocchi si toccavano. Ancora una volta Fritz disse «Deutsches Mädchen», ma Coralla non rispose. Fu in quel momento che si udì un rombo molto lontano. «Flugzeuge», disse Fritz, e tutti guardarono in aria nel cielo bianco di caldo. Il rombo si distese nel cielo e aumentò, ma non si vedevano aerei. Veniva da sud, accompagnato via via da un grande silenzio. Anche le cicale smisero di cantare. Poi cominciarono i primi bagliori lontani e infine si videro avanzare gli aerei altissimi e lucenti in tre grandi formazioni a forma di triangolo. «Contiamoli», disse Giannetto. «Non ne ho mai visti tanti». Quando furono sulle loro teste, Max disse con una strana gioia nella voce «Sono 36!» Ma il rombo non si spense e se ne udì un altro e poi un altro ancora. Max contava sempre e per quasi mezz'ora passarono sul loro capo a grande altezza gli aerei. Bestie, dentro stalle lontane, cominciarono a muggire. Un solo aereo restò indietro, con la coda fumante e perdendo quota. Quando passò su di loro, videro chiaramente la stella americana, la prima della loro vita. Quattro piccole palle uscirono dalla fusoliera. Uno dopo l'altro si aprirono i paracadute. I ragazzi seguivano con gli occhi i paracadute verdi scendere oscillando e cercavano di distinguere gli uomini, gli americani che non avevano mai visto, col cuore in gola. Di là dalle colline, avvolte nel vapore, salirono i boati, gli schianti e nubi di fumo. Max vide chiaramente le pupille di Fritz dilatarsi e i suoi occhi diventare quasi neri. «È Verona», disse. «La guerra finirà presto». Federica Fracassi ha letto Sillabari di Goffredo Parise, a cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.